mercato di agricolture ieri è andato bene, non l'avrei detto, ma il martedì pomeriggio sicuramente c'è più affluenza e diversa del sabato mattina. E il fatto che sia tutte le settimane, secondo me, è vincente. L'importante ora è essere banchi sempre un numero dignitoso per avere un mercato dignitoso. La parola d'ordine è dignitoso. Oh, oggi abbiamo una voce nuova, ma soprattutto ne abbiamo una vecchia che è tornata. Ciao a tutte, ciao a tutti. Quindi, È proprio vero, è tutto vero. è tornato Mulo. E nonostante la parlantina di Mulo, che oggi avremo modo di riassaporare dopo tanto tempo, il buon Drio, che è sempre stato con noi, ma sempre in silenzio, oggi ha deciso finalmente di parlare. Prendo parola anch'io perché, Bravo! quando è i neonati che poi iniziano a parlare È tipo dopo quanti mesi? Tipo un no, dopo un annetto. annetto iniziano a fare le prime Io cosine. dopo 4 mesi Io 5 mesi, ho preso insomma. parola. Ecco, bene, dai. Poco, parlo poco, però Però parlerò che anch'io oggi, dai. parli poco, però che qualità! Che qualità! E Bene. poi da parte mia, quanto mi siete mancati? Tanto, tanto, Oh, tanto, tanto. cuore, Mula, anche cuore, cuore. noi, anche tu ci sei mancato tantissimo, Lo dici con un davvero. ghigno strano, però, No, cara vabbè, ti dama. abbiamo chiamato, ti abbiamo mandato in onda anche l'altra volta, ma soprattutto oggi vogliamo sapere, almeno ne parleremo per chissà quante puntate di che cosa hai fatto tutti questi mesi, no, senza di Chi noi, hai chi hai incontrato, dove sei incontrato. stato? Tutto vi dico, non Però c'è problema. anche oggi è un piccolo anteprima, un Ma qualcosina ce lo devi anche giusto due dare. sciocchezze, dai, l'apriamo e la chiudiamo oggi. Poi magari qua e là in futuro riecheggeranno delle sensazioni, delle esperienze, delle cose che si sono viste, magari dei contatti che si sono, ecco, approcciati e magari attraverso la radio, chissà che po possano un giorno diventare anche dei contributi. Però, cioè. Oggi allora ci tocca spremerti. Eh sì, una cosina. No, no, dama, come fai tu è troppo. Però una cosina così per intrattenere. Però, ecco, vedo te, vedo il buon dottor io, però non vedo nessun altro. Attenzione, com'è Ma sta manca storia? una C'è voce. chi torna e c'è chi va. E c'è chi va, ma che bellezza. Va, però io vorrei rassicurare i nostri radioascoltatori numerosissimi che ci scrivono tutti i giorni a radiocontatto, che Tutti i oggi è libera.net. giorni. Non preoccupatevi. Tutti i giorni mi suonava il telefono quando ero all'estero. Mamma Tutti i mia, giorni, fioccano a mela come non ci mamma fossero mia. domani. A me la gente ti fermava per strada. Io questa voce la riconosco, mi pare che è il È il mulo. burro. È il È il burro. burro. È successo solo 12 volte, però, guarda, non tanto. Comunque, come abbiamo notato, El Burro è stato qualcosa che ha a che fare con la Spagna, ma prossimamente c'è qualcun altro che volerà in un'altra terra dove comunque lo spagnolo è abbastanza di casa. Chi è? Chiesa? No, chiesa. Chi è che manca oggi, Mulo? Ah, manca, come si chiama? Pietro di Fiammè. No, quel Pietro. O Tiziano. Gerardo? Chi è che No, manca? forse Battistuta, che ha compiuto gli No. anni e Battistuta che ha hanno compiuto gli festeggiato, mi anni. hanno detto questa roba terrificante, scusate, adesso È mi è venuto tutto in vero, è mente, tutto di vero. una Firenze invasa per i festeggiamenti di Battistuta, Grazie della signoria piena. al che io ho domandato, ma perché è fiorentino? E tutti mi hanno guardato male. Comunque, va Vabbè, bene, parliamo ma un bel sì, pietoso. ma meno male, meno male. Il nostro Il camicia nostro va camicia, guarda, via! io sono qua che solletico il suo cartoncino, quello dove c'è scritto il suo nome, ci vado a dormire insieme perché Che camicia io non lo vedo tenerezza. da 45 giorni, cioè sto segnando sul diario personale, quello più intimo, con una tacchetta ogni volta che non vedo camicia ed è davvero troppo, sono E infatti ti distrutto. vedo provato, Eh ecco, sì. dalla lacrimuccia proprio impellente che è lì, Sì, è lì, è lì. è tutto Però vero. io vorrei rassicurarti, perché almeno così ci ha detto, no? L'ultima volta che l'abbiamo visto, amici, che tornerà. Tornerà Ma dove va? fra Ma dove va? Hai parlato di qualcosa a che fare con la lingua spagnola. Va in missione. Va in missione? In missione per Radio Contado? In missione segreta per Radio Contado. No. Non era segreta, non si poteva dire. No, e va... di preciso non lo so, in Bolivia. Ma possiamo in Bolivia? Dire... In Bolivia? Ah, qua, dietro Troghi, la Bolivia. Dietro l'angolo. Fra Troghi e Pontassieve, dov'è che sta la Bolivia esattamente? Va in Bolivia, è un matto. Va in Bolivia e gli abbiamo dato anche lui, come abbiamo dato a te, un sacco di adesivini di Radio Wombat. Vediamo se Radio Wombat arriverà. Attecchirà. Ma poi non diciamo troppo, perché quando tornerà il nostro buon camicia, perché buon camicia tornerà, è vero? Allora sì. Anche lui gli toccherà raccontare che cosa ha fatto. Ma lo chiamiamo? Lo chiamiamo a merda adesso senza dirgli niente. Vediamo. Dai, proviamo a chiamarlo. Proviamo a chiamarlo mentre diciamo che abbiamo un mega problema tecnico. Tipo, camicia qua. Non c'è Drio. Si è impallato tutto. Mentre proviamo. Sì, mentre proviamo a fare questo. Di cosa parleremo oggi? Oggi abbiamo una marea di piccoli contatti. Ditelo anche a me, perché io ho preso la voce, ma non so la scaletta. Oggi parleremo di un sacco di cose. Avremo un sacco di contatti telefonici. E introdurremo degli eventi della settimana, piuttosto che parleremo di alcuni post. No, Nick, abbiamo un problema enorme, no, enorme camicia, non ci non parte. Detto, ma tanto tranquilli, tanto a Wombat Radio si deve cominciare mezz'ora in ritardo, mi hanno detto. È così di default. È così, sì, vedrai, Dio buono, ci hanno fatto, dovevamo stare 2 ore in trasmissione alle polveri, ci hanno fatto stare 3/4 d'ora perché hanno cominciato tipo 40 minuti dopo. Vergogna! Salutato. Puntuali come i contadini pochi, eh. Allora va bene, siamo sì, sì, tutti ci hanno chiamato e volevamo anche dirti che noi stiamo chiamando te, ma in realtà sei in onda. È un pesce d'aprile! No, no, Silvio. Ma chi è Silvio? Adriana. Noi al massimo oggi abbiamo la new entry, che è Drio, che ha deciso di parlare finalmente. Sto lo parlando senti? Anch'io, mi senti? Stai parlando, davvero? Mi senti sul 13:59 in AM oppure su Radio Wombat? No blogs. Stai iniziato a parlare alla manifestazione l'altro giorno, come il contributo del 30M vi dirà, sentirete tante parole di Drio. Bene. Attenzione. Tanta roba. Sì, un'analisi politica lucidissima. Camicia, ma ci puoi dire... C'era un furgoncino che vendeva il vino e lo seguivo, il furgoncino del cantiere, grazie, un saluto. Senti, Camicia, per non lasciare troppo in suspense i nostri radioascoltatori, ci confermi che tornerai prima o poi? Confermo che tornerò prima o poi e confermo anche che bisogna che avete sbagliato a cominciare in orario. Abbiamo sbagliato, stiamo facendo tardi adesso con te, quindi. Camicia, il problema è che mi mancavi troppo e volevo sentire la tua voce, perché come ho detto prima agli ascoltatrici e agli ascoltatori, c'ho un diario su cui segno ogni giorno che non ti vedo e questo è il 43esimo, il 45esimo, vedi, non mi ricordo più, mi manchi tantissimo. Grande Mulo, si comincerà a contare più le puntate in cui ci manchiamo a vicenda che quelle in cui siamo insieme. È un po' un romanticismo ridotto all'osso, no? È davvero, quanto siamo romantici. Madonna, e visto che c'è tutto questo amore... Adesso appena allora, mettiamo già, giù... Detto di cosa parlate oggi? Abbiamo già detto. Sì, l'abbiamo detto più o meno. Però lo diciamo con camicia ancora. Allora. Dicelo camicia, di cosa parliamo oggi te che non ci sei? No, secondo me di femminismo e aeroporti. Sicuramente di aeroporti, sicuramente visto che ci sono state 2 importanti manifestazioni in questo fine settimana, abbiamo delle testimonianze, sicuramente avremo una testimonianza anche di un fattaccio successo oggi purtroppo a Firenze, sicuramente parleremo un po' delle vacanze del Mulo, perché siamo curiosi di capire che cosa ha portato per così tanto tempo lontano da noi, sicuramente chiameremo anche Dino e lo intervisteremo e poi parlato della manifestazione, tra l'altro. Anche lui infatti l'avevo beccato fuori dal campo, era al corteo, era spaesato fuori dal campo, ma poi in città voglio dire anche al corteo. Un uomo di campagna come lui in città, all'aeroporto. Sì, ma l'hanno fatto passare. Anche al Tenax, tra l'altro. Perfetto. La famosa discoteca. Posso approfittare ovviamente per ricordare che sabato in Polveriera ci saranno gli in camicia, vero? Ma chi sono? Chi? Dai un po' più di dettagli, a che ora in Polveriera? Dalle 9, 9 e mezzo, dai, venire. Dai. Bene, e dopo questo lancio metteremo una canzone che ci hai consigliato te. Quindi metteremo Lochiero, cioè Todo di Lochiero, in tuo onore. Della Sodio o di... Ma che ne so, quella che ci hai passato te, camicia, è quella. Quello che ci hai passato te oggi. Ci non mi sono arrivate, No, no, vabbè, no. C'è inconveniente da dire. C'è arrivata questa qua del gruppo che dicevi, che si chiama Lucchero, e quindi mettiamo questa. Bene, bene. Vai. Okay, c'è anche un'altra, si chiamano Las Odio, controllate, sono bellissime. Ah, ok, va bene. Voi non ci stai, metti super solo le canzoni sue. Ah no, forse è quella di là, so, vabbè, questa qua. Comunque va bene, dai, intanto la mandiamo. Sei un grande, ti vogliamo ciao, bene. Camicia. Ciao Camicia, un abbraccio. Siete delle grandi e soprattutto Mulo, Dio e la Dama. Buon viaggio Camicia, soprattutto, grazie. E voi no, voi altri no. No. Un abbraccione, ciao. Ciao. Ciao. Quanto chiacchiera questo. Insomma, quasi subito stiamo cercando di contattare una persona che ha dato la disponibilità a raccontarci qualcosa di molto molto brutto che purtroppo è successo oggi a Firenze, segnalato dalla grande regia, insomma da tutte le persone di Radio Wombat. Ci hanno chiesto, insomma, visto che andavamo in diretta noi oggi, di dare spazio e voce a questo racconto, insomma, quindi un pochino una denuncia, ma non vi anticipo niente di più. Vorrei passare la voce a Enrico, che nel frattempo sta parlando col mulo, così da soli stanno parlando fra di loro, ma eccoli, forse arrivano. No, siamo arrivate. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Benvenuto.

Davvero. No, che storia. È allucinante, si vede soprattutto in una città come Firenze, sì, questa rincorsa del PD, di un PD disperato che insegue la destra su soprattutto sui temi della sicurezza, della cosiddetta lotta al degrado, senza rendersi conto di quanto invece questi personaggi, come appunto Omero, come ci ha raccontato, siano proprio le vere anime della città, che rendono un luogo più dinamico, più vivibile, più pulito, più umano, più pulito anche. Cioè, di tutto. Io davvero ricordo il sottopasso della stazione di Campomarte, era più pulito di casa mia, sicuramente, guarda, senza ombra di dubbio. E tutto questo grazie a queste persone che qualcosa di simile al bene comune però trattano, di cui si occupano seriamente, mica così. Vabbè. Che dici, Doctor? Io ci spari una canzoncella così a intermezzo, che una io metto sul caffè. Una canzoncella consigliata dalla dama. Vai, vediamo così, di in cosa realtà si è tratta. Un po' a caso, però. Un po' di musica brasiliana. Cosa vuol dire un po' a caso? Non è che c'entra proprio col un po' tema, caso, però un po' così. Un po' allegra, dai, dopo una telefonata pesante. Alleggeriamoci. A vizinha quando passa con seu vestido grenà. Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grena. Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação. Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém. Todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Ela mexe com as cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação. Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém. Todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Direi da sempre obiettivamente, sicuramente presente, perché comunque è grazie a tutti i conduttori di Radio Wombat che siamo riusciti a intercettare la situazione, insomma, che prima ci ha raccontato un pochino Enrico. Quindi da sempre obiettivamente presente, può dire la migliore, da sempre, dai, dai, obiettivamente, molto presente. Molto tra... presente, ecco, tra... potremmo aggiungere questo pezzettino. Vogliamo fare la parentesina di rilancio dei contatti, eccetera, cioè blog, per esempio, radiowombat.noblog.org. Ho visto trio preparato prima. Ah, interrogazione, interrogazione. Allora, e qual è la nostra mail? Se leggo la lavagnetta, allora... Allora, ci ascoltate in diretta sul 13.59 in AM oppure sul blog, no, sul blog? Sì, sì, certo che sul blog, no, dove se no? Sei già fermato. Un'autostrada. Più sicurezza. Di Radio Wombat. Più sicuro di te stesso che le sai. Poi ci abbiamo le repliche. Quando? Che sono il sabato. Sì. Alle? A mezzo. 14? No, no, è troppo in là, è troppo in là. Allora, le repliche sono il sabato a mezzogiorno. A mezzogiorno. E la domenica? La domenica a mezzogiorno. No, la domenica non siamo in replica, caro dottor Io. Siamo il venerdì in replica. Sì, ti faccio i trabocchetti. Il venerdì mattina. Venerdì mattina mi pare alle 9:30, giusto? Dovrebbe essere, sì. Esatto. Insomma, orario strano. Davvero, un abbraccio gigantesco. E invece scriveteci, scriveteci a Radio Contado, chiocciola, in Siberia. Con l'H. .net. No, senza H, senza H in Siberia. Vediamo se riusciamo fra le tante mail a leggere proprio la tua. A leggere anche la tua. Vediamo se sei fortunato. Ascoltaci così lo saprai. Non valgono le mail di Niccolò, che salutiamo, il nostro amico Niccolò, non valgono le sue, però tutte le altre sì. Va bene. Fatta questa carrellata. No, posso dire un'ultima sciocchezza? Che no, durante... tanto poi parlerai solo te. No, che palle. No, che sono stati stampati nuovi volantini, nuovi... È successo questo sketch domenica, che io sono tornato sabato sera a Firenze e dintorni. E domenica sono riuscito, ho voluto partecipare al corteo in memoria di Orso e nulla, in un contesto assolutamente diverso, una certa, si è avvicinato un ragazzo, mi fa: conosci questa radio? Sono stato volantinato. Quindi però hai tenuto segreta la tua identità. Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì, perché dicevamo prima che in Spagna mi hanno riconosciuto in diversi, però in centro a Firenze nessuno. Comunque sì, sono stato volantinato, è stata una cosa che mi ha strappato un sorriso e una lacrima di malinconia, posso dirlo? Sì. E poi un'altra cosa che mi piace notare è questi incastri che si vanno generando nella nostra piccola trasmissioncina, il nostro balcone che dà sulla campagna, e non c'è Camicia, Tornamulo, non ci sarà Drio, ci sarà qualcun altro, Fuoco al Contado, l'ho seguito, è andato in diretta anche in questo modo, wow! È tutto così bello perché fluisce molto. Spumeggiante, poco ortodosso, ognuno apporta il proprio contenuto. È quello che una radio libera ti propone di fare. Noi, eccoci, la interpretiamo. Che dite? È un pensiero, mi piace questa cosa. Il giorno che saremo di nuovo tutti quanti, il Dream Team tutto unito, penso che si aprirà il classico varco spazio-temporale e usciranno una marea di dinosauri da quella cosa e sarà la fine. Ma non ti sembra che sia tornato ancora più saggio il nostro muro da questo viaggio? Saggio e arricchito e ora... No, arricchito proprio non credo, però... Adesso invece vogliamo arricchirci anche noi, grazie alle tue esperienze, quindi narraci un mulo prolisso, di un viaggio. Prolisso come sempre. Ci hai dato già un primo indizio, hai parlato di Spagna. Sì, ho parlato di Spagna perché sono stato tecnicamente in Spagna, però questa cosa si può dire solo a metà, nel senso che ho fatto due tappe, una abbastanza ovvia, nel senso che ci atterrava l'aereo, e quindi ho esplorato un po' la metropoli, Barcellona, partendo da qui, e ho trascorso diversi giorni lì, sia in... poi voglio dire, lo stile della vacanza qual è stato? Cioè sì, ci piace rilassarci, ci piace... Ma era appunto vacanza, ma cosa intende? Vacanza o viaggio? Che poi sono anche diverse, cioè perché la vacanza è proprio sullo relax, il viaggio invece è un po' più impegnato... Nel frattempo ci controllano. Sì, sta passando una cosa gigante sopra le nostre teste. Va bene. Attenzione, chissà se andate frittole, non ci scoprirete mai. Mai, mai. Davvero. E c'hai ragione, cara dama, è una domanda interessante la tua, è una riflessione che forse non avevo veramente fatto. È stato più un viaggio. È stato più un viaggio perché non solo si sono toccate, ho toccato diversissime tappe. Aspetta che sale il caffè. Oh. è arrivato. Dobbiamo confessarlo, per pigrizia è settimane che non ci beviamo un caffè in radio, perché aspettavamo il mulo, perché lui che io sono... mi porta sempre l'arancia, le mele. Io sono quello del vizio. Io sono... cioè la merendina, ma non il caffè con i tre biscotti. Ci sono un biscottino a testa e il caffè per tutti, perché io sono quello del vizio, nel senso che il buon vivere deve essere una cosa che ti deve contagiare ovunque tu vada. Cioè, quindi ti sei viziato anche nel tuo viaggio? Assolutamente sì, perché non sono mancate le cenacce di pesce, non sono mancate le chiacchiere, non sono mancate purtroppo le sbronze, di cui ne registriamo un paio fatte veramente bene, tra l'altro, e tra l'altro, vabbè, senza troppo dire, alle 2 di notte, un martedì notte alle 2 chiuso fuori dall'ostello, in situazioni pietose, però ci sono stati anche questi sketch, però... Ritorniamo alla serietà, un viaggio... Proviamoci. Un viaggio, quindi... Perché? Cioè, ma qual era viaggio... il tuo obiettivo? Hai detto vado un po' via dalla campagna. L'avete detto in maniera molto, come dire, un po' volgare. Ecco, però sì, cioè, vivere in campagna, ahimè, costa molta fatica, ahimè, possono essere necessari dei periodi di stacco. E se uno è bravo ad organizzarsi, specie se non vive da solo, e se uno è bravo a cogliere il momento giusto in cui fare questi stacchi, uno si può permettere anche davvero di stare via una 25ina di giorni con serenità, un po' perché grazie a voi, cioè, questo impegno fra i tanti altri era, tra virgolette, coperto e parato, come lo sarà sempre qualora un drio, una dama, un camicia volessero andare via. E torniamo al discorso del primo. Poi c'è stata tutta la parte personale di ricarico di energie e soprattutto una curiosità incredibile, non tanto e non solo per questa prima tappa, che pure è stata molto bella, ma per la seconda tappa vera e propria, che sono stati i seguenti. Secondo indizio? Attenzione. È l'introduzione questa, l'introduzione adesso parte. È bassissimo il volume, mi sa che... La riconoscete? Avete 10 secondi per scrivere a radiocontadocaggiainsibere.net secondo voi questo brano di tradizione è. Sì, e cosa si vince? Cosa si vince? Perché stavo per scrivere un messaggio io. Si vince una maglietta. Una maglietta? Radio Uomo. No. Poi comunque c'è un... Chi indovina? Come si chiama? Chi l'ha composto? E chi l'ha riprodotto questo? No, fallo partire che adesso pompa di brutto. È una musica tradizionale di che paese? Finisce sempre così, guarda, nell'ignoranza più totale. Questa qua è una musica tradizionale di San Sebastian e siamo nei Paesi Baschi, che definire Spagna in me non è più cosa, per mille questioni non sono io la persona più esatta, ecco, maggiormente deputata a spiegarlo, però un abbozzo di racconto, qualcosa si può fare. E questa seconda parte del viaggio è stata veramente tosta, interessante, e si è girato un po' i Paesi Baschi, nel senso si è girato perché non sempre sono stato, per fortuna, da solo, anzi ho avuto, come dire, delle guide che hanno molto agevolato la mediazione linguistica, teniamola lì come questione, e culturale, in senso lato. E mi hanno appunto introdotto a dei luoghi meravigliosi e soprattutto delle situazioni. Quindi per fortuna avere amici e fare rete serve anche e soprattutto a questo. Perché ovviamente erano tutti contatti che tu avevi prima di partire o che ti sei creato là, ma dati da qualcuno. Esatto, esattamente, che è bellissimo viaggiare così per contatti, lasciandosi un attimino influenzare da quelli che possono essere anche i gusti degli altri. Ah, guarda, quel posto lì non mi è piaciuto molto, preferisci, cioè mi sono trovato meglio di là, e vai lì, esplori e dici wow, figata. E dici, ne è valsa la pena. Hai incontrato persone, ma anche realtà particolari? Sì. Ho incontrato persone a cui sono molto legato, a cui voglio molto bene, compagni, tra l'altro, quindi non è che si scappa moltissimo. Ho incontrato situazioni molto interessanti, però per essere veramente, veramente veloci, diciamo che le città che mi sono trovato a visitare sono state 3. E sono state... Altra questione, c'è sempre il bilinguismo, da tenere in considerazione, la questione linguistica, questo orgoglio identitario che è molto radicato, è molto presente e lo trovi anche banalmente nei cartelli stradali quando arrivi in questa regione è appunto il binomio basco, ovvero l'euskadi e la lingua, l'euskera, e il castigliano, che già definire lo spagnolo inizia a avere degli eco un po', ecco, che fanno sicuramente il tuo interlocutore, la tua interlocutrice alza un po' il ciglio quando si sente definito spagnolo, quindi questo già è un indizio potente. Prima città, Vitoria, o meglio detta Gasteiz, la chiameremo Gasteiz d'ora in poi, perché Vitoria, con una T sola tra l'altro, suona, come dire, un po' franchista come nome, tipo latina o mussolinia o robe del genere, quindi Gasteiz è stata la prima tappa. Vittoria, esatto. Quindi quando andate a Gasteiz, però mi raccomando, mettetevi una giacca, una sciarpa fatta bene, perché sorge su un altopiano e in media c'ha 8-9 gradi in meno rispetto al resto del continente. Okay? Quindi sembra di salire in montagna. Tu eri preparato o ti hanno dovuto vestire? No, mi ero preparato, cioè non mi sono mai cambiato quasi in un mese, che è brutto dirsi, però ho fatto qualche lavatrice qua e là, però ero preparato tecnicamente, equipaggiato bene. Una seconda città che ho un po' esplorato, anzi esplorato molto bene, è Bilbo, che molti conosceranno come Bilbao, esatto, che non è la capitale dell'Euskal Herria, perché è una regione autonoma e è appunto questa Gasteiz la capitale formale, dove c'è il Parlamento basco, eccetera eccetera, anche se è più piccola e anche veramente bruttina, a parte il centro, perché poveraccia, gli hanno costruito un cinturone di palazzi, sembra di stare a Gotham City, è tutto attorno, veramente bruttina. La terza città dove mi è capitato di incontrare questo, chiamiamolo, quintetto che spifferava musica tradizionale, era la ben nota San Sebastian, che chiameremo Donosti ancora una volta. Quindi queste qua sono state le tappe principali, dopodiché una marea di paesini veramente veramente belli, perché da un lato c'hai le montagne, tutto vertissimo, piove sempre, questa cosa qui è il tallone d'Achille di quella zona, quindi uno parte e un po' lancia una monetina. Ma quindi lì la natura spacca? La natura secondo me spacca proprio di brutto, anche se ci sono delle contraddizioni grosse, perché i Paesi Baschi sono, mi permetto di dire, se non la più ricca, fra le più ricche regioni della penisola iberica, nota bene come inizio a sguisciare la parola Spagna. E questo perché? Perché c'è stata un'industrializzazione fortissima, voluta ancora una volta dal regime di Franco, a cavallo fra gli anni 50 e 60. Vedete che ho anche studiato la storia. No, davvero, è preparatissimo. E questa cosa, culo, grazie, sì, cara. Anche perché questa sarebbe l'ora di Minima Ruralia, quindi secondo me lui si sente in dovere di dover condire con un po' di cultura vera. Oddio, poi tutti i dati che dovete andare a verificare voi, perché io le chiacchiero queste cose, però non è che... Quindi, parli di industrializzazione, ma voglio sapere, ma i contadini come noi ci sono? Li hai incontrati? Non ne ho incontrati tantissimi, perché dicevo che la regione è innanzitutto diversissima a livello proprio morfologico, cioè le montagne nell'entroterra, quindi arrivando da sud in direzione nord verso l'oceano, e l'oceano, quindi... L'oceano però è significato, per esempio, Donosti, dal 1920, è turistica, cioè è meta di turismo. Finché c'era il gioco d'azzardo legale, eccetera, il concetto di turismo è stato, non dico inventato ovviamente, perché i Grand Tour li facevano pure gli inglesi nell'Ottocento, però diciamo che è una città sorta al fine di fare turismo. In alcune sue zone, ovviamente quelle del centro, quelle più lucidate, ristrutturate, poi la periferia, arrivandoci in treno, la vedi ed è presente. Insomma, c'è turismo, c'è anche tanto altro, e su tutto industria e natura. Questo connubio qua è stranissimo, perché il boom economico a cui accennavamo prima ha fatto sì che a cavallo fra gli anni 60 e 80, non vi dico il disastro di autostrade, tunnel per fare TAV, porti industriali e aree industriali che, chiudo gli occhi, mi sembra davvero di tornare a Bergamo. E grande contraddizione, perché hai a tratti stuprato un territorio, dall'altro lato c'è un tenore di vita medio che secondo me è superiore rispetto a tantissime zone del nostro paese e anche delle altre regioni della penisola iberica. E quindi stai lì in mezzo. Arriviamo all'agricoltura per dire che ci sono, come dicevo prima, vallate, montagne, colline bellissime, verdissime, e tutto questo di fronte al mare, all'oceano, che è potentissimo. Ho fatto delle registrazioni di alcune onde che si infrangevano su un, come si chiama, il frangiflutti gigantesco, ma robe impressionanti, il rumore del vento. Però pochissima densità, grandi appezzamenti e soprattutto lì coltivano poco o nulla e quindi si fa vacche da carne, vacche bellissime perché sono tutte ciccionissime e gustose immagino, e le pecore, quelle tonde proprio da cartone animato, ho visto però solo quello, nel senso che non ho avuto modo di apprezzare grandi orti o robe del genere, serre quelle qua e là si intravedono. Serre volontà, ma allevate o cresciute come queste vacche? Ma erano liberissime, pecore, quindi... liberissime, cioè erano interi ettari. L'apparenza era quella, poi laddove c'hai i grandi numeri è sempre un po'... Di sicuro si fanno molti meno problemi di noi che abbiamo un clima, voglio dire, se non africano, molto più secco. Si fanno meno problemi di noi nell'integrare l'alimentazione, perché sicuramente verrà integrato con qualcosa, tipo orzo, favino, qualcosa che si dà, il mais, quelle robe lì, anche se ormai è un casino, il mais vale un po' che appare buono, anche se c'è scritto biologico, ormai mais e soia è un disastro, sono quasi tutti OGM. Che dire, di sicuro queste vacche non stavano male a guardarle, cioè proprio stavano belle. Erano in un bel posto. Erano in un bel posto, esatto, ma mica in un solo posto, le si trova davvero in tutta la zona montuosa, a cavallo fra l'oceano e l'entroterra, e tanta roba. Però agricoltura, ecco, per rispondere e chiudere questa domandina, quando ho provato a chiedere a qualcuno a proposito di autodeterminazione alimentare, e questi qua mi hanno risposto: ma che problema c'è? Qui è quasi normale, è quasi normale essere, come dire, metalmezzadro, cioè avere un appezzamentino di terra, qualche animale per la casa, per la famiglia, e al contempo farsi turni da 6-8 ore in fabbrica nell'altra porzione di giornata. Quindi l'autodeterminazione alimentare, a meno che tu non vada in città, non è un tema che il compagno, in generale le persone in quella zona hanno sotto occhio, magari ne hanno diversi altri e molti altri, e insomma ci arriviamo, credo. Ma infatti adesso non abbiamo tantissimo tempo perché dopo abbiamo un sacco di contributi e altre telefonate, però volevo capire, i compagni e le compagne che hai incontrato e di cui ci hai parlato, quindi di che si occupano? Beh, paese che vai, usanza che trovi. Quindi a Bilbo ho frequentato per qualche sera uno spazio che una volta era una scuola autogestita, si chiama Carmela con la K, e magari davvero in futuro ci sarà occasione di capirne di più. Era una vecchia scuola, davvero saranno diverse centinaia di metri quadri su 2-3 piani, palestra, cos'è che offriva una scuola? Le aule, la palestra, una cucina per la mensa, è tutto in autogestione, è tutto uno spazio che viene richiesto. Ecco, questo qua è l'upgrade che mi porto dietro, cioè proprio un concetto di bene comune un attimo più sviluppato, più radicato culturalmente, cioè ci sono forme di organizzazione culturale, popolare, mi viene da dire quasi istintiva, tale per cui alcuni vengono portati a mettere a recuperare degli spazi e mettere a disposizione, e questa cosa funziona. Funziona perché davvero molte associazioni, gruppi con una finalità magari temporanea però ben chiara, chiedono in gestione degli spazi, e Carmela con la K, per chi volesse cercarlo in internet, è stato uno di questi, ma non è stata la zona o la situazione che ho meglio esplorato. La situazione che ho esplorato più a lungo è stata quella di R. Caleor, che era un contatto che tra l'altro il buon Camicia mi aveva accennato, eccetera. Ho provato a chiamare il contatto del Camicia, ma è stato un po' una sola. Salutiamo Ignaki, però Ignaki non ci ha mai risposto, quindi non è stato lui. Grazie Ignaki. Ho fatto prima di imboccare. In pratica a Vittoria, quindi nella capitale che sta rispetto all'oceano, una sessantina, un'ottantina di chilometri, un po' verso sud nell'entroterra, siamo fra Bilbo e Pamplona. Pamplona è un altro nome spagnolo, si chiama Irugna. Ok? Fra Bilbo e Irugna c'è questa Gasteiz, e nel quadrante sud-est della città sorge questo barrio completamente autogestito, completamente auto-organizzato, con una sorta di autogoverno in divenire, perché è una storia che è nata, una curiosa coincidenza, come l'esperienza di Mondeggi Bene Comune, è nata nel 2014, nell'estate del 2014. Ed è sostanzialmente un quartiere che è stato costruito negli anni 60-80 per ospitare operai che appunto lavoravano nelle fabbriche della zona, talmente ben congegnato che non c'era nient'altro che le abitazioni. Non c'era uno spazio per la socialità, non c'era un parco, non c'era nulla. gli operai stessi, un quartiere dormitorio. Esattamente, tant'è che se uno guardasse, poi diamo anche riferimenti, però la mappa dall'alto vede queste lische di pesce che sono quelli che loro chiamano i blocchi, i palazzi, e ciascuno dei quali ospita a cazzotto 6-8 appartamenti, tutti paralleli, ripeto, come le lische di pesce, però sono stati gli abitanti stessi che hanno costruito, per esempio, il fronton, che è un capannone sportivo in cui si gioca la pelota basca, che è un muretto, cioè il gioco del muretto, lanciare la palla 2 contro 2, rossi contro blu, ed è uno degli sport più noiosi del mondo, guarda, ve lo posso dire, se è proprio una cosa che ti capita di vedere nei bar, lo guardi per 5 minuti e dici, ma proprio come fanno questi essi appassionati, hanno costruito sto fronton, hanno costruito un cinema, che è ancora in uso, anzi è stato recuperato, però tutto questo e altri spazi ovviamente, però tutto questo è decaduto negli anni 80, alla fine di quest'epoca, diciamo nei primi anni, alla fine degli anni 2000 è stato tutto completamente abbandonato, tagliato fuori dalla cintura urbana, finché 2014 è stato occupato. La particolarità di questo posto è che, resistendo a un tentativo di sgombero molto molto grosso, hanno comunque ricevuto una sottrazione pesissima, ovvero gli hanno asportato buona parte dell'impianto elettrico. E allora cosa è successo? Questi ragazzi e queste ragazze si sono, appunto, attraverso l'auto-organizzazione, hanno lanciato un crowdfunding da qualcosa come 100.000 euro, obiettivo raggiunto in un mese. Questo fa capire, come dicevo prima, la portata... C'è il valore dell'autogestione, cioè c'è una coscienza molto più... Esattamente. Poi c'è tutto un perché che bisognerebbe leggere libri e libri, però affonda le radici nel negazionismo dell'identità culturale basca, appunto dovuta alla spagnolizzazione forzata di Franco, che è morto nel 75, ricordiamoci questo, cioè il 75 può essere l'altro ieri, e questa cosa ha un po', diciamo, esaltato questi valori che sono vivissimi, magari, ripeto, non nelle città, che la globalizzazione colpisce duro. Però, ecco, 100.000 euro in un mese. E con questi 100.000 euro hanno comprato pannelli, accumulatori e quant'altro. Hanno montato tutto questo, facendosi dare aiuti, tra l'altro, anche da fuori, per esempio dalla ZAD francese. Quindi un collegamento da paura, anche a livello, tra virgolette, internazionalista, un minimo. E oggi questo impianto riesce a mandare buona parte dei consumi del quartiere, certo che sono limitati a caricare i cellulari, cucinare e la luce ovviamente, già le docce, c'è cioè il blocco con le docce in cui ci si fa a turno, il blocco di lavanderia non riescono a sviluppare, che ne so, 15 kW, però quei 3, 4, 5 per fare le serate, per vivere il quotidiano ce la fanno, ed è un esperimento, dicevo prima, non autonomia alimentare, però noi il percorso sull'autonomia energetica non l'abbiamo mai nemmeno preso in considerazione. Per esempio, questa roba qui è potentissima e è stata una delle giornate più belle. E ancora ringrazio Lau, che è stata la compagna che mi ha letteralmente guidato a esplorare blocco per blocco, serigrafia, palestra popolare, ciclofficina, cinema, gastecce. Gastecce vuol dire la casa dei giovani, è quello che è il centro sociale per noi. Ogni città, se voi andate in una città nei Paesi Baschi, urlatelo in giro, cercate il gastecce, che appunto è gas, che è il giovane o i giovani, e CEA in generale vuol dire la casa, e quindi la casa dei giovani è lì, è il fulcro di tutte le iniziative, diciamo, appunto, che arrivano un po' più dal basso, potente. Quindi ti porti a casa un po' di speranza che forse un po' di autogestione possa anche arrivare qua. Ma questo, per fortuna, e ogni mercoledì lo dimostriamo, c'è già. Da certi punti di vista, certo, manca un po' un tessuto, esattamente. Vabbè, ma è quello che, per esempio, la comunità di resistenza contadina Girona La Ronza prova a imbastire ormai da sempre, ma in generale genuino clandestino. Se uno va a acchiappare il manifesto, c'è scritto proprio, appunto, uno, costruire comunità territoriali partendo dall'agricoltura. È quello il nostro lavoro. È come arrivare in un posto e dire, ah, tutta la tua vita la stai, tra virgolette, spendendo anche in quello, arrivi in un posto e lo trovi quasi già fatto. Anzi. Allora, lo lancerai te mercoledì prossimo, assolutamente, però il prossimo fine settimana, quello del 12, 13, 14 aprile, ci sarà appunto la Rima Flow a Milano, a Trezzano sul Naviglio, un incontro dove si parlerà anche di autogestione, di fabbriche recuperate, fattorie recuperate, con una serie di realtà veramente provenienti anche dalla Spagna barra penisola iberica, Francia, Grecia, insomma, quindi speriamo che anche questo porti un pochino di luce, delle modalità che ci permettano di andare avanti, andare un pochino oltre, di creare, almeno iniziare a creare un minimo di tessuto sociale. E noi speriamo sempre. Posso lanciare giusto il contatto di questo quartiere? Vai. Che sarebbe molto, molto carino. Ecco, che anzi, glielo ho detto proprio palesemente: ho detto, guarda, il mio sogno è quello di creare un ponte, cioè una sorta di Erasmus permanente in cui la gente viene, la gente va, ci si ospita, ci si rimane in contatto. Chiaramente sta a me in prima persona rimettermi in contatto con le persone, trovare un po' il coraggio, un po' la pazienza, l'energia di farlo. Però per tutti quanti, tutte quante, www.rcaleorbisiric.org. Allora, ve lo ripeto, Rcaleor si scrive con la K, in basco più o meno tutte con le K, C è tutto Rcaleorbisiric, vuol dire è vivo, Rcaleor vive, è vivo. .org, poi magari lo linkiamo anche sul sito, esatto, tutto quanto dire, è lo più linkiamo facile. Magari sul sito in un dettaglio divertente è che loro hanno questo upgrade, che loro leggono le mail il giovedì, cioè per andarli a trovare. Come funziona? Uno può imboccare lì, però non è detto che qualcuno ti possa accogliere o ci sia, non so, una situazione, anche se il sito è straaggiornato, questi sono di città, mica come noi, che, voglio dire. Però se uno scrivesse la mail, sappia che il giovedì loro leggono le mail, quindi per me è stato facilissimo. Sono imboccato lì, non ho trovato nessuno. L'unico che ho incrociato è stato quello che mi ha detto: guarda, noi leggiamo le mail. Gli ho scritto una mail e loro, puntualissimi, il giovedì mattina mi avevano già risposto dicendo: guarda, ti aspettiamo. E nulla. Quindi questo qua è l'invito stravalido. Facciamo vacanze intelligenti oltre che rilassanti. Quindi un augurio a tutti. Viaggiamo, troviamoci il tempo e facciamo in maniera intelligente. La prima puntata della rubrica viaggi militanti. Sì, sì, sarebbe bellissimo fare una cosa. Venite a raccontarci i vostri viaggi militanti. Certo, magari non possiamo far vedere le diapositive. Anzi, adesso mandiamo una canzone e vi ammorbo con le diapositive. Siete pronte? Siamo pronti. Ecco, la canzone invece che ora manderemo. Vai, leggi un po', quello lì è il nome del gruppo, il titolo della canzone Arrosaco Zolan. Zolan, la Zolan. Z si pronuncia Zolan. S, la Z Zolan. Non esiste. Zolan. Questa qua invece è una canzone rock, un po' pompata, me l'hanno fatta sentire un paio di volte, è un po' pompata, nel senso questo stile ultra imperiale a tratti, però è una canzone, diciamo, che esalta di nuovo questa identità basca. Siamo tutti baschi, l'ha fatta un gruppo basco francese però, dall'altra parte dei Pirenei. Chiudiamo qua la parentesi di viaggi dal mondo, va? Vai! Naiz eta telebistan ez gaituzten modan, euskararen gara lokarri azkarra, gauiru nonetako gure artizaran, zazpiun langire sutsuta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez, konzertunen bidez, musika ez diez, euskai zenta izan abetiko zabitez, zazpiun langire sutsuta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez, konzertunen bidez, musika ez diez, euskai zenta izan abetiko zabitez. Lukata hamburgesa, euskai humanesa, gustua gazea ere zer dugun edesa. Entu nahi diguten ilon zabertute, izakik onikoak egin nahi gaituzte. Jode ezagun bada, horak ialaba, multinazionar horien egia ez gara. Etoitzak hortzikak, nato zirantzak, norberera izateko arte zagun indar. Gode zagun gara, gorak ialaba, multinazionar horien egia ez gara. Etoitzak hortzikak. Erdogan, el gare ne sa duzza da un cago Erdogan, un dunco er un ca che ri en boroca, il duca da ustico sa pa tu se cioca, sa ca i via, tu si la via, la vuota zorion su da euskaleria. Qui dove siamo adesso vorrebbero fare passare questa striscia di 2500 metri di asfalto sopra al previsto Parco della Piana. Quindi niente, siamo qui per dire che non è tutto perso, la lotta è ancora lunga. Hanno sì l'autorizzazione, ma come è successo nella lotta abbiamo fatto per l'inceneritore, avevano tutta l'autorizzazione e poi abbiamo portato quasi 20.000 persone in piazza, abbiamo vinto al TAR e loro hanno perso l'autorizzazione. Quindi sull'aeroporto cercheremo di fare la stessa cosa. C'è ancora da lottare, faremo una grande manifestazione il 30 marzo a cui inviteremo anche i sindaci, molti sindaci della Piana sono contrari perché qui noi vogliamo il Parco della Piana, quello che era previsto da 20 anni e che questi vorrebbero scipparci per fare un favore a queste SPA che hanno guadagni per pochi e danni per tutti. Un maxi corteo che ha visto stavolta la partecipazione non solo dei comitati e degli studenti, ma anche dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato, in attesa dell'udienza del 3 aprile sul ricorso al TAR dei comuni contrari. In particolare per noi il problema è il polo scientifico, perché la pista verrebbe costruita a 50-100 metri dal blocco aule, che è quell'edificio là, sarebbe assolutamente impossibile fare didattica. E sarebbe anche assolutamente impossibile fare ricerca in questi due edifici che sono il LENS, che è il Laboratorio Europeo di Spettroscopia, nel Dipartimento di Fisica o nel Dipartimento di Chimica, dove sono presenti strumenti molto sensibili che verrebbero danneggiati dall'inquinamento vibrazionale e sonoro. Settemila oggi. Oggi forse più 7.000, dai, siamo realistici, ma siamo veramente tantissimi qui al corteo per contro l'aeroporto della Piana, a ribadire ancora una volta che queste grandi opere inutili fatte dai ricchi per i ricchi sono veramente un abominio della specie umana e non possiamo più tollerare questa arroganza veramente incontrollabile. Quindi è un sì all'anticapitalismo. Un sì all'anticapitalismo, un sì ad abbattere un certo sistema di modello di sviluppo e un sì a proporre un sistema autonomo che parta dal basso, dai cittadini e riesca a rigenerarsi a vivere in maniera sana e genuina. Facciamo il toto scommesse, quanti giornali secondo te parleranno di questa manifestazione? Ma pochi, pochissimi, anche perché i mezzi di comunicazione di cui oggi disponiamo sul mainstream sono mezzi di comunicazione come dicevano negli anni 70 di regime, quindi probabilmente non verrà data pochissima visibilità a un corteo che invece oggi ha portato in piazza una moltitudine di persone. Condino che esce dal campo per imboccare le strade della resistenza. No, sì, la rivoluzione Altenax soprattutto, perché vedo ricordi di gioventù. Quanti siamo? Milioni oggi? Milioni delle sì, vecchie se ne parlava, sì, un milione di vecchie lire contro l'aeroporto, che giustamente mi sono rotto le palle di stare nel mio campo con tutti i stereo mi passano sopra, basta! Siamo tantissimi oggi per dire sì al parco e quindi no all'aeroporto. Sì all'aeroporto, no al parco? Esatto, quasi, siamo in tante a dire questo. O siamo in tante. Siamo in tantissimi di Radio Contado soprattutto. Soprattutto tutti qua, manca solo un mulo, è bellissimo, ma siamo qua a intervistare un po' dal corteo. No, sia ai campi, no a tutto il resto. Sia a campi, no, no a Prato, ma anche no, sia a Prato, sia ai campi. Sia ai campi, sia al Prato, sia ai boschi, sia ai ruscelli, sia agli uccelli. Uccelli a... No al cemento. No al cemento, no agli speculatori. No al rumore. Quante no al rumore. Stimate? No al rumore molesto. Quante persone secondo te ci sono state oggi? Io sono qui da 2 ore e ancora non sono riuscito ad arrivare in cima, quindi... Tante, 100.000. 100.000, siamo 100.000 oggi. Alle nostre spalle c'è l'autostrada. Di fronte a noi, circondato dai monti della Calvana e dalle pendici di Monte Morello, rimane uno degli ultimi lembi di terra risparmiati dall'urbanizzazione. J paro con il cat, con lo stile più massiccio. È Jay che massito con il rap a braccio. È ferro, è il pop del lessico, è l'hip hop più classico. Tipo fanculo ad ogni sbirro, calmo come quando squaglio e rollo. È ghiaccio, uno sta nel ritmo fino al collo. 2 per la grana, 3 per le b-boy stance. Perché è una questione d'attitudine. È il nome sul muro, è duro sul vagone. Lo sfoggio del trick più gaggio dentro la competizione. Sul flash del clash del sound. Ti ci giochi la reputazione come nei playground. Altro che down, questa è l'app totale, rock da ogni botta un quintale, livello che sale insieme alla temperatura ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente si espande, si espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente e si espande. Niente di più facile, il rap bomba. Io nella mia giungla, vivo e scrivo fino a notte fonda. Se c'è la musica son l'ombra, se c'è da devastare sono io la grande onda che si forma. In questa selva di fagiani, sono il cacciatore, la mia penna spara tra le mani. Mentre la mia testa non spera nel domani e crea piani. Il rap e il rap, noi, portatori sani dove tutto è deleterio. Come Jaime sono serio e come me so sempre vero. Gioco da ragazzi tra i palazzi come TRV. Get up, andare su, la città è nostra. Perché il rispetto costa, per questo date una mossa o date la scossa. Io pio la rincorsa, il muro lo scavalco anche da solo stavolta. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente si espande, si espande. Non è del momento con il rap, suona più forte delle bombe, le bombe sul classico originale boom bap, nasce da niente si espande. Non è del momento con il rap, colle del fomento suona più forte delle bombe. Classico originale, classico originale. Colle del fomento con il rap. Sono più forte delle rap. Parla dove tutti stanno muti. Colle del fomento, zio, balla coi lupi. Dammi 2 minuti, c'è la selva del lessico. Elettrico, eclettico. Viaggiare stando fermi è il massimo, è vita. Perché soltanto una gita è la sfiga. Ti fotte la notte che arriva. Vuoi mettere? Colle non scherza. E se scherza, so uova e la metti. E il rap che non smette. Faccio stanche giù, Nike bianche, umore nero sul fronte del palco. E ground sotto zero. Su con un pensiero più forte delle bombe. Con molte più parole che tombe al cimitero. Sparo, pallottole da stalaringe. Un massiccio spinge dall'era delle Jordan 5. Una testa in guerra e 2 dita per la pace. Sul classico suono originale che ti piace. Corre del momento con il rap. Suona più forte delle bombe. Le bombe. Sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Si espande. Corre del momento con il rap. Suona più forte delle bombe. Le bombe. Sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Corre del momento con il rap. Suona più forte delle bombe. Le bombe. Sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Si espande. Corre del momento con il rap. Suona più forte delle bombe. Le bombe. Sul classico originale boom bap. Nasce da niente e si espande. Colorato per dire no all'intolleranza. A Verona è andata in scena la contromanifestazione che si oppone alle idee reazionarie del congresso delle famiglie. La manifestazione transfemminista organizzata dalle femministe di Non Una di Meno, a cui hanno aderito le famiglie Arcobaleno, i Verdi, i Radicali e l'Arcigay tra gli altri, è partita dalla stazione di Porta Nuova. Il corteo ha come colore distintivo il fucsia, che è il colore di Non Una di Meno, da contrapporre al nero di chi vuole una società patriarcale. È una giornata meravigliosa, siamo tutti qua perché indietro non si torna. Il corteo di oltre 20.000 persone, 40.000 secondo gli organizzatori, ha marciato all'interno di una zona rossa con grate e blindati delle forze dell'ordine per contenere i manifestanti. Tanta gioia in piazza, ma anche qualche preoccupazione. Per tutelarmi, perché quando finisci in prima pagina perché stai facendo una manifestazione femminista e poi devi chiedere un lavoro, già sono discriminata in quanto donna e non voglio essere discriminata anche per la mia presa di posizione politica. Ci sono stati anche dei momenti di tensione nella zona attorno a Piazza Bra, non lontana da Palazzo della Gran Guardia, dove si svolge il convegno, con lanci di fumogeni e qualche piccola schermaglia, ma fondamentalmente si è trattato di un corteo pacifico. Una risposta è manifestare che la libertà non si può definire o limitare con delle leggi. Ognuno è libero di ascoltare la propria coscienza. Ma io credo che semplicemente le persone che sono qui per dire che vogliono essere ognuna libera di fare un po' quello che le pare senza fare male agli altri ed essere accettate per quello che sono e di vivere per quello che per la propria dignità personale vuole vivere, insomma, senza giudizi, stigmi né coercizioni da parte di altri. Il messaggio che deve uscire, secondo me, è che nessuno deve permettersi di criticare minimamente l'essere umano, perché io credo fermamente che ognuno sia libero di manifestare la propria sessualità, il proprio concetto di famiglia, il proprio concetto di amore in libertà più assoluta. una grande famiglia dove nessuno rimane indietro e siamo tutti accettati per quello che siamo. Grazie, grazie, grazie, sono appena arrivata, quindi stavo stirando. Poi ho trovato 10 minuti per venire a parlare un po' di politica con voi e davvero penso che questa presenza così numerosa qui fuori, nonostante le tante polemiche, ci hanno detto di tutto per questo congresso. Hanno detto che siamo retrogradi, che siamo sfigati, che siamo impresentabili, che siamo oscurantisti, che è uno scandalo che c'è qualcuno che voglia difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che voglia incentivare la natalità, che voglia dare il giusto valore alla vita umana, che voglia sostenere la libertà educativa, che voglia dire no all'ideologia gender. Rispedisco a una al mittente queste accuse. Io dico che è sfigato e chi non ha nulla da fare che venire qui a insultarci mentre cerchiamo di parlare di cosa si fa, possa fare per la famiglia italiana, ma soprattutto dico che impresentabili non siamo noi, che impresentabili non siamo noi, che impresentabili non siamo noi, che impresentabili non siamo noi, che impresentabili non siamo noi, che impresentabili non siamo noi. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordare? Data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a plana essere ricordati qui per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle. Io non ho più parole, perché questo ragazzo ci ha lasciato un grandissimo ma guarda, ci ha tenuti incollati alle casse per 18 minuti questo ragazzo, perché veramente è speciale. Come faremo senza? È una domanda che non mi voglio proprio porre quest'oggi. Non lo so, vabbè, insomma, noi intanto lo ringraziamo e Fra un po', ma magari non subito, approfondiremo anche un pochino appunto i contributi che ci ha lasciato, perché uno è sulla manifestazione no aeroporto, sì parco, che si è tenuta insomma sabato a Firenze, come abbiamo sentito è stata bella partecipata. Migliaia? Centinaia di migliaia di persone. Centinaia e migliaia di persone. Sentito? Diciamo, quanti direi più o meno? 5-6 mila persone ci saranno state realisticamente. Sì, però insomma. è andata bene. E poi invece per la manifestazione che c'è stata a Verona avremo a breve, insomma, fra un pochino una telefonata in diretta, quindi non annunciamo niente perché ce lo racconteranno direttamente le voci di chi ha partecipato. Fioccano le telefonate, fioccano le mail, leggiamo quella di... No, non leggiamola adesso, facciamola aspettare un po'. No, adesso io voglio voci della comunità, ragazzi. Attenzione, perché esatto, voci della comunità, mi viene in mente subito Dino il contadino, giusto? Che era fuori zona, adesso lo massacriamo perché... No, oggi lo intervistiamo proprio di fino. Di fino? Di fino. Esploriamolo. No, prima mettiamo anche la prima canzone che ci dedica. Sì, mettiamo prima di tutto la sigla. Esatto. Sigla. Attenzione. Sale. Schiacciacela. Thank you. Eccoci. E di questa canzone dobbiamo ringraziare Dino che ce l'ha consigliata. Ciao Dino. Ciao a tutti, come va? Ah, benone, benone. Noi un po' all'asciutto perché qua a Frittole non è che abbia fatto grandi piogge. Qua invece sì, ha fatto un po' d'acqua, ma non abbastanza, insomma. Stiamo già parlando del meteo, attenzione. Come? Stiamo già parlando del meteo, dico. Sono passati 12 secondi di conversazione e abbiamo già perso la fantasia. Ma noi oggi invece... quello sì, dai, il meteo ci sta sempre bene. Perché con Dino è un argomento, non so... Sì. Oh, ma cos'è questo? Non sei nel campo, sì. Un dinosauro? No, cos'è? Sono dei fantasmi. Senti Dino, ma ci dici perché hai scelto Cucur Cucù come canzone? Perché per ricordo, cioè, anche l'allegra, perché per tante cose, insomma. Poi anche Battiato, insomma, sempre piaciuto, quindi per questo che l'ho scelta, spero vi sia piaciuta. Ci è piaciuta molto, ce la siamo gustata e abbiamo così inaugurato la telefonata di oggi che sarà... Avete ballato? Abbiamo ballato, sì. Cioè, abbiamo mosso le teste. Vagamente mosso le teste, sì. Qua dalla regia, insomma. C'è stato un tentativo di karaoke, ma me l'hanno boicottato. No, tra l'altro poi, legato a questa canzone, con ricordo personale, quando per un periodo ho lavorato... In Irlanda e fece la versione in inglese di questa canzone parlando di una mia collega. E riscosse molto successo, sai, i miei colleghi irlandesi. Com'è la versione in inglese? Ci puoi accennare un pezzettino? Adesso l'imbarazzo è totale. Ma era molto locale del posto dove era, perché il ritornello era, parlava appunto del cognome di questa questa ragazza, che era molto particolare, cioè veramente condividevamo la stessa scrivania, ma eravamo veramente uno l'opposto dell'altro, però c'era la grande simpatia, ci prendeva in giro, così. Quindi era il ritornello era cucuru cucu McSweeney from Knocknahini, perché questo era il cognome e Knocknahini era il quartiere da dove veniva. Oh, attenzione. Che bellezza. Era stato divertente, ecco. Insomma, mi ero sperimentato anche come cantante, come traduttore ufficiale di Battiato. Incredibile. Quindi Dino, visto che oggi sei partito, insomma, raccontandoci un po' della tua storia personale, noi vorremmo rimanere lì. Cioè, e sapere, ma tu, oltre a essere Dino il contadino, cioè, chi sei? Hai sempre fatto il contadino in tutta la tua vita? Come ci sei arrivato? Fai anche altro? Ora come ho detto, appunto, no, perché ho avuto anche delle altre parentesi, anzi, forse partendo anche dalla parentesi irlandese, anche lì, ecco, diciamo, è stato una di quelle esperienze in cui... ho maturato il ritorno alla terra, ti dico ritorno perché comunque io nasco, insomma, da una famiglia di contadini e che i miei nonni, insomma, cresciuto comunque, stato molto anche con i miei nonni che loro facevano i contadini e da sempre loro hanno scoraggiato ogni tipo di mio possibile avvicinamento a questo mestiere, dicendomi che dovevo studiare, che era più importante studiare, che il lavoro del contadino, insomma, era faticoso, che non si guadagnava nulla. E quindi tu hai studiato? Come? E quindi tu hai studiato? Sì, ho studiato, diciamo, studiato, ho fatto anche... anche se ho, diciamo, continuato a parte dopo il liceo, ho continuato poi, ho fatto l'università dopo, ho fatto anche altre esperienze lavorative e appunto poi sono andato a lavorare in un periodo in Irlanda, lì ho capito, già avevo una mezza idea, ma di ritornare con Italia e riprendere proprio a tempo pieno, insomma a tempo pieno, comunque di continuare a fare il contadino, proprio perché lì avevo visto, insomma, che forse dice, come dire, c'era stato forse più che qua in Italia, diciamo, un abbandono di certe, certe pratiche, e quindi veramente era andare a fare la spesa, era veramente una tristezza immensa, perché veramente i prodotti a livello industriale importavano tutto, e insomma, quindi ho detto no, non voglio, ecco, che questa sia la strada che si possa prendere, ecco, insomma, io voglio ritornare, ho scoperto, ecco, l'importanza che a volte si dà per scontata, appunto, che ho di andare nel campo, raccogliersi un pomodoro, cucinarselo, prendere l'insalata e cucinarselo, o qualsiasi altro frutto, che può essere una cosa semplice e banale, però mi rendo conto che per tanti non lo era, e ho detto vabbè, questa è una cosa importante e voglio continuare a farlo, ecco. Bene, bene. Ma e i saperi, però, anche se i nonni ti scoraggiavano, te li hanno tramandati loro della terra, o hai studiato, cioè, anche no, più? No, vabbè, perché poi comunque era insomma, ho imparato, diciamo, perché comunque c'era sempre bisogno nei momenti, diciamo, di critici. Non so, cioè, ricordo di quest'estate, dell'estate non ha, che appunto non ha, nei periodi che non c'era la scuola, appunto, magari c'era bisogno, in particolare mi ricordo di quando portavano veramente furgonate di cipolle al mercato di Novoli, che ci passava io e la mia sorella a giornate intere a sbucciare queste cipolle, a fare i mazzi, a tagliarle, a incassettarle, insomma, oppure a fare i mazzi di asparagi, no, oppure di accomodare le cassette, i pomodori, le zucchine, insomma. Quindi un po', quindi ovviamente stando sempre lì a contatto, imparavi. In più, insomma, veniva anche usato un po' ai miei genitori il campo come punizione, cioè facevo qualche cosa e... Vai a lavorare nel campo. No, mi ricordo una volta, proprio avere 16-17 anni così, che tornai una notte molto tardi, ma veramente tardi, era quasi mattina praticamente, tra l'altro c'era un temporale micidiale, presionavo, arrivai a casa fradicio, e non mi fecero nemmeno andare a letto, mi disse vai, oggi ti sei guadagnato, vai a cogliere pomodori, vai. Mazza. La carota al bastone proprio. E quindi praticamente, no, che giustamente era preoccupato, guarda, tipo avevo detto torno a mezzanotte, insomma alle 5, tutto, ancora non ero tornato. Cioè, era una punizione meritata. Il cellulare all'epoca, tutto, insomma, quindi... Quindi nonostante il castigo, era un locale memorabile che era in Monte Carla a tempi, insomma, per chi frequenta Firenze, conosce Firenze, era, insomma, un locale che andava molto, un po' di anni fa, insomma. Ma quindi nonostante il castigo a te ti è rimasta comunque la passione? Sì, certo, no, è quella la passione, poi ripeto, l'importanza, a volte io davo per scontato la cosa di avere il cibo sano, genuino, fatto da te, che è una cosa che dà molta soddisfazione, insomma, magari io lo davo per scontato, però poi appunto quando non l'ho avuto a portare mano, ho capito invece l'importanza che aveva, insomma, questa cosa. Senti, ma i tuoi nonni ti hanno insegnato anche a non metterci niente, a non condire il terreno, o lì hai fatto un'evoluzione tua? A non? Condire con cimi chimici o altro? Ah sì, no, vabbè, ora appunto quello che c'è stato il passaggio, magari appunto che loro ovviamente come molti che hanno fatto la fame, perché le nonne così, che quindi gli hanno venduto il progresso e e la chimica, che per loro è sembrato all'inizio un miracolo, perché gli permetteva, insomma, di avere molto di più rispetto con molta meno fatica. Però poi, ecco, un po' quindi, poi anche loro hanno capito che comunque non era una cosa sana per il terreno, per tutti, ecco, insomma. E quindi sicuramente poi ho avuto io un interesse forte, maggiore, per fargli capire, oh, insomma, che si poteva fare in un modo diverso, ecco. E adesso vivi... No, siamo molto addolorati. Dobbiamo dare questa triste notizia, che la seconda canzone che avevi scelto non capiamo perché non l'ha scaricata bene. No, no, quindi, no. Adesso il nostro Vondrio, cioè, mal che vada, non la mandiamo subito, la mandiamo poi dopo. No. Adesso Vondrio adesso fa miracoli e la mandiamo, esatto. Comunque, devi solo dirci altri 2 minuti di cose. Ora me lo vedo in mente, dicevo, ora che vivo io nella vita, poi ho affiancato questo lavoro anche altre cose, che appunto lavoro, non so, se si può identificare una parola, anche brutto, comunque un operatore sociale, e combino, nel senso, queste due passioni, nel senso che sia con i ragazzi che lavora in una comunità per ragazzi disabili, e anche con loro facciamo l'orto, o con i bambini, insomma, ho portato anche questa mia passione in quest'altro lavoro. E poi anche un'altra cosa dell'importanza del campo è che, sempre una volta che in passato, insomma, per tanti anni ho fatto teatro. E che ovviamente c'era mia nonna in particolare, un po' la vedeva un po' strana questa mia attività, perché mi diceva sempre, hai detto, l'artista dalla fame perde la vista, quindi mi diceva, insomma, e una volta mi ricordo che era a casa sua e stava vedendo la televisione, guardava Il Gazzettino Toscano, me la chiamava lei, e c'era una delle tante ormai innumerevoli che ci sono state nella storia, contestazioni verso la Fiorentina, la squadra di calcio, e c'erano tutti, diceva, la gente diceva, andate a stappare, a me mi ha guardato e ha detto, certo, a te non te lo possono dire perché a stappare. E quindi lì ho capito che era una grande mossa per mettere le mani avanti, quindi se no ti dicevo, ma all'altro, no, guarda, lo faccio di già, quindi no, è così, insomma. Va bene, Dino. Noi, insomma, non riusciamo a scaricarla sta canzone, no, e dobbiamo chiamare anche un'altra persona. Però ci proviamo, perché magari a conclusione di questa puntata la mandiamo. Facciamo un cambio scaletta. Intanto un cambio scaletta, mandiamo l'altra scelta da Drio. E un consiglio che vorresti lasciare... No, avevi una domanda. No, prego. Un consiglio che vorresti lasciare a chi magari vuole iniziare a intraprendere una carriera da contadino, di andare allo stadio a vedere la Fiorentina, esatto, per iniziare, dire, andate a sappare, esatto. Oppure no, provare a fare la carriera da calciatore, non riuscirci, ma vai a sappare, ma capisce, insomma. No, che tra l'altro poi, no, ora mi viene a mente di stadio, di cose, mi ricordo anche di cori che mi vengono in mente riguardo ai contadini, e mi viene casualmente anche pensando a voi, sì. C'era un core che ti fa Atalanta, un sogno nel cuore, comprare un bel trattore. Io lo sapevo diversa, era tipo allo stadio col trattore, comunque non cambia il contenuto, sì. Vabbè, insomma, e noi di trattori, anzi, magari possiamo approfittare qua per dirlo, che a Mondeggi stanno facendo un crowdfunding, si dice così, sì, per si dice così. I fondi per comprare un trattore, quindi al di là di tutto, chi volesse contribuire a comprare un trattore... Mi pare che si chiami Per una buona causa il sito, comunque sul blog di Mondeggi immagino che ci siano tutti i riferimenti, dona anche tu un bullone a Mondeggi, esatto. È proprio la prima cosa che si legge nel blog. E con questo, Dino, guarda, mi spiace di cosa, ma ti salutiamo perché c'è una

eccoci. Ciao Alba, siamo in collegamento con te in diretta su Radio Contadio e ti ringraziamo insomma per essere qui telefonicamente con noi oggi. Ciao, grazie a voi. Faccio una piccola introduzione. Alba insomma fa parte del gruppo, poi ce lo dirà meglio lei, di Non Una Di Meno, ed era proprio fisicamente oltre che mentalmente con tutte le sue energie presente alla manifestazione di sabato a Verona. Sì, esatto, sì. Quindi ti lasciamo la parola, penso, a raccontarci un po' com'è andata questa manifestazione, ma anche perché è stata organizzata e che cosa c'è dietro. Sì, allora c'è stato appunto un summit sabato a Verona sulla famiglia tradizionale, ecco, questo era il tema centrale, mentre insomma fino a qualche anno fa era relegato un po' ai margini, no, della politica, nel senso che per fortuna direi che i media se ne sono disinteressati, quest'anno diciamo che i risvolti erano un po' più pesanti, cioè c'erano tre ministri della Repubblica Italiana, quindi c'era Salvini, c'era Fontana e Pillon. Diciamo la differenza è che gli è stato dato un rilievo istituzionale. Esatto, nel senso che comunque è stato patrocinato dal governo e quindi siccome i temi sono trattati, sono pesantemente reazionari, patriarcali, insomma maschilisti e retrogradi, si può dire senza nessuna si può dire. quindi insomma è stata fatta un po' una chiamata, no, alle armi, tra virgolette, ovviamente alle armi, nel senso che sono partiti autobus da tutta Italia, da Firenze sono partiti tanti autobus, mi sembra, se non sbaglio, 6, 7, 8, insomma, e 4 organizzati solo da Non Una Di Meno. Un buon numero. La città è stata letteralmente invasa, perché ovviamente eravamo, cioè no, non era così ovvio, però eravamo tantissimi. Le previsioni erano 20.000, ma pare che siamo stati più di 100.000, 150.000. C'è chi dice addirittura 200.000, ora comunque non so, però la città era veramente invasa, eravamo tantissimi, non si vedeva la fine del corteo. Cioè c'era proprio questa sensazione di pienezza. Ah, sì, assolutamente. Bello. Certo che tutte le strade erano piene di gente, non si vedeva, anche stando fermi anche un'ora, non si vedeva la fine del corteo. E c'è chi dice che appunto cima e coda del corteo si fossero toccati, insomma, quindi si era arrivati proprio a colmare tutta Verona. E il clima com'era? Il clima era particolare, cioè io non ho mai assistito a una manifestazione così, no? Perché era una manifestazione molto arrabbiata, perché comunque i temi erano pesanti, no? Però allo stesso tempo molto ironica, cioè molto basata sul sarcasmo, sulle tematiche comunque femministe che erano di maggior rilievo, transfemministe direi, però sempre con il sorriso, insomma, ecco. Si respirava, era abbastanza goliardica e allo stesso tempo però piena di contenuti. Ci puoi dire un po' di nuclei che hanno partecipato a questa manifestazione? Allora, c'erano le famiglie Arcobaleno sicuramente, che erano in testa al corteo e anche a ragione. C'erano 4 carri fondamentalmente che sfilavano. E c'erano una di meno nazionale e poi no, sinceramente gli altri gruppi ora non mi sovviene, comunque insomma, la parte preponderante erano, credo fossero queste due parti insomma di organizzazione, che poi facevano parte di una di appunto fanno parte di un'associazione, di una, insomma, di un movimento più grande che si è appunto schierato contro il summit della famiglia tradizionale di Verona, appunto, che si chiamava, se non sbaglio, Retro March, insomma, sotto questo nome si sono raggruppati vari movimenti, ecco. Bene, insomma. E secondo te in prospettiva, cioè che cosa è successo dopo e grazie a questa manifestazione, insomma? Due cose abbastanza importanti. importanti, anche se poi bisogna vedere a lungo termine se sono solo una mossa, no? Diciamo, perché pareva fino a ieri che fosse stato archiviato il DPL Pillon, che vabbè è comunque un decreto legge appunto voluto dal ministro Pillon e che appunto riguarda in particolare l'argomento separazione affido e che è molto penalizzante per le donne, perché in pratica vabbè introduce una mediazione familiare obbligatoria, pagamento, cioè cose insomma che penalizzano il soggetto debole della coppia, che in Italia quasi sempre la donna, quindi insomma purtroppo e pare sia stato archiviato dopo subito il giorno dopo Venezia, però non è così sicuro. Non è ancora ufficiale, però insomma lo speriamo allora. E poi revenge porn, è stata passata la legge sul revenge porn, che appunto era stata respinta, cioè appunto la rivalta, no, degli ex nei confronti delle proprie ragazze, mettendo magari materiale pornografico online, quindi anche questa è una pratica che non è regolamentata e che comunque ha visto morire anche diverse ragazze, esatto, no? negli ultimi anni, perché appunto si ritrovano poi appunto in base al web del loro materiale intimo, magari mandato al proprio fidanzato, e poi questo magari le rimette in rete, appunto, no? Quindi è una pratica anche questa molto maschilista, molto pesante, che comunque tante ragazze sono costrette a subire. Bene, dai, comunque qualche piccolo spiraglio di luce si inizia a intravedere. No, infatti quando mi dicono non serve a niente manifestare, io dico non è vero, perché soprattutto se ci sono numeri così grandi. A volte si possono anche ottenere delle cose molto pratiche. Vabbè, non una di meno, mi sembra che dimostri un po' l'importanza anche di manifestare, che comunque da quando si è creato ha organizzato delle manifestazioni importanti. Esatto. Sì, io poi penso anche che abbia ridato dei contenuti, delle parole, potenza, delle parole che ormai, no, erano state un po' bollate come anacronistiche oppure come inutili, tipo il femminismo, cioè, e dandogli contenuti secondo me nuovi e vecchi allo stesso tempo, no? Prendendo spunto da essendo un movimento globale da tutte le parti del mondo, no? Perché poi è nato in Argentina ma si è espanso in tutto il mondo, per fortuna. Mi viene in mente, in base a quello che stai dicendo, insomma, che invito tutti a leggere questo libricino che è il manifesto del femminismo al 99%, che secondo me è veramente molto bello e molto interessante, dimostra come il femminismo si è declinato in un'accezione di movimento che comunque lotta insieme ad altri movimenti anticapitalisti, possa veramente insomma fare un esatto. percorso positivo insieme agli altri, non femminismo inteso solo come il dominio per forza la parità di genere con l'uomo, equiparato all'importante che sia una donna a comandare, non un uomo, ma un qualcosa di un po' più profondo, no, che sia un cambiamo insieme questa società. Esatto, no, infatti, perché alla fine capiamo che il patriarcato ha fatto nascere anche il capitalismo, se pensi che è il dominio alla base di tutto, del più forte, del più debole, e poi possiamo anche capire tutti i meccanismi che poi portano la società di oggi a avere i problemi che ha. Quindi fondamentalmente appunto penso che qualsiasi tipo di evoluzione senza femminismo non va da nessuna parte, ecco. Sì. Ci vuole una bella parità e prendersi tutti la responsabilità per cambiare un pochino radicalmente, esatto, insomma, il mondo in cui viviamo. Senti Alba, io ti ringrazio, ti dobbiamo salutare perché siamo praticamente a conclusione, ci mancano ancora 10 minuti come al solito nella puntata. Grazie veramente della tua testimonianza preziosa. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Niente, come al solito, niente. Senti, però ho visto che il buon Drio ha raccattato alla stragrande il pezzaccio di Nol Contadino. Dino, questo è altro. Allora mandiamo il pezzaccio per Dino e ci carichiamo per il seguito. Ci carichiamo per la rassegna eventi. Rassegna eventi, altra chiamata. Scusate, Wombat, siamo di nuovo in ballo a sforare. È tornato il mulo, non si può fare altrimenti. E mo' è colpa del mulo, va. Eccoci tornati in diretta, sono le 16:35 e Radio Contado si allarga come suo solito dirigendosi verso la fine della puntata, ma tramite una rassegna eventi. Ringraziamo Radio Wombat per la grande pazienza che ha nei nostri confronti. Esatto. Ma non potevamo non farla la rassegna eventi, perché comunque la rassegna eventi è carica. Preparatevi tutte e tutti quanti, perché da questa sera siete tutti invitati. Si sente l'asterisco quando lo dico così. Siamo tutte invitate dove? Al cinema Odeon, perché questa sera alle 20:30 c'è la proiezione di un bellissimo documentario. Dama, se mi sposti la casella, grazie. Si chiama Soialism, quindi il gioco di parole è soia, soialism, il nuovo documentario di Stefano Liberti ed Enrico Parenti sull'insostenibilità dell'agricoltura industriale e degli allevamenti intensivi, sarà al cinema Odeon il prossimo, ovvero questa sera, il prossimo 3 aprile alle 20:30, e quindi questo è il primo invento. E noi non potevamo non promuoverlo. Non potevamo non promuoverlo. Ci sarai tu, Dama? Io no, perché io sinceramente ho 3 assemblee. Questa sera c'è l'assemblea della Radio Wombat, non è un evento granché. Io granché, ho l'assemblea di Terre di Lastra e ho l'assemblea della Garanzia Partecipata. Olè! Quindi andiamo direttamente a fine settimana. Oh, Giovanni! Eccoci! Bentornato in diretta! Giovanni, ci senti? Sì, voi mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, sia noi che speriamo tutti i radioascoltatori, perché noi volevamo sapere da te, ma tu che fai venerdì 5 aprile? A che ora, scusa? No, vabbè. Vabbè, prima sei al mercato, in Piazza Tasso, ti vediamo. Tutte tu le fai, tutte tu. Pomeriggio intenso, perché c'è il mercato... contadini in piazza Tasso dalle 3 alle 7 e mezzo per me, perché alle 7 e mezzo devo essere già alle piagge con gli altri miei compagni già pronti a rivoltare. Ti teletrasporterai. Infatti Giovanni, scusa, qua sul volantino c'è scritto che alle 7 e mezza inizia lo spettacolo, non alle 7 e mezza TV. Infatti, no, io sono già d'accordo con i miei due compagni che loro preparano tutto. E tu arrivi in diretta dal mercato. Arriverò preciso per lo spettacolo, ecco. Ma un po' prima dal mercato, chiaramente. Che spettacolo ci sarà e per che cosa alle piagge? Allora, le piagge intanto è una rassegna e loro hanno organizzato, il centro sociale delle piagge ha organizzato ormai da diversi venerdì, dove fanno cinema e teatro, insomma hanno invitato varie realtà, vari gruppi e varie altre iniziative, e seguitano ancora, penso, qualche altro venerdì, no? C'è un programma che si potrà guardare sul loro sito, però io intanto noi facciamo uno spettacolo prima di scena subito, e dopo ci sarà un incontro su Mondeggi, sull'esperienza di Mondeggi, e che anche loro, insomma, come centro sociale vogliano approfondire, vogliano conoscere, vogliano presentare ai loro frequentatori. E ci sarà anche una grande spaghettata. Brava Dama. La spaghettata in mezzo tra lo spettacolo e la chiacchierata dopo su Mondeggi, la spaghettata. Senti, ma lo vuoi lanciare un po' il tuo spettacolo? Diamogli un titolo. Allora, lo spettacolo che si presenta lì alle piagge si intitola Su questa terra, ed è uno spettacolo che abbiamo allestito mettendo insieme vari spezzoni di altri spettacoli che si è fatto in passato, ed è un liberamente tratto per la maggior parte da dei testi di Jonot, quindi sempre dallo spettacolo che abbiamo fatto su Lettera ai contadini sulla povertà e la pace di Jean Jonot. C'è un altro pezzetto assemblato che proviene da Furore di Steinbeck, insomma si è fatto un collage di varie cose con un finale molto inerente alla situazione di Mondeggi. Bene, allora per chiunque voglia, insomma, non diciamo altro che andate a vederlo, mi raccomando. Sì. Direi, insomma, la sorpresa, un minimo di sorpresa. La spaghettata sarà anche un'altra sorpresa, speriamo positiva, e poi dopo le chiacchiere, vabbè, quelle che non fanno mai male. Solito. Va bene. Grande Giovanni. Grazie Giovanni. Ci vediamo allora, anzi dopo in assemblea. Che palle. Ci vediamo dopo, sì, in realtà ci vediamo dopo, però a chi può e chi ha voglia ci vediamo venerdì alle piagge. Bene, grazie, buon lavoro. Grandi teatranti. Ciao. Ciao. Guarda, mi sento di aggiungere solo un dettaglio, che giustamente questa bella spaghettata è utile prenotarla al numero 055, molto facile, 373737, manco fosse finto, 055 373737, prenotatela. Ma andiamo però, avanti. Andiamo avanti, sì, perché sempre quel venerdì. Santo cielo, il 5 aprile sarà un giorno fantastico, chissà per quale ricorrenza. Però per chi non volesse andare a vedersi Jean Genet, Lettera ai contadini sulla povertà e la pace interpretata dal teatro. Lo so, può venire in piazza Tasso a festeggiare il compleanno del mulo. Tesoro, no, non era questo, cari miei, perché il 5 aprile alle 18 al CSA Next Emerson inizia la 2 giorni di Smash Sound Festival con Zero Calcare, che ripresenta Cubane Calling. Perché? Perché giusto quest'ultimo fine settimana siamo stati alla manifestazione, al corteo commemorativo e di ricordo di Orso, ovvero un partigiano che lottava contro l'ISIS, è stato ucciso da Firenze in Kurdistan, appunto per, potremmo dire, la libertà e la pace. È un po' banale, però. Dopodiché andate sul sito del CSA Next Emerson e troverete tutti. Ma se proprio né uno né l'altro dei due eventi che abbiamo qua detto vi piace, allora siete tutti invitati alla cena che ci sarà a Mondeggi, bene comune, di cui accennava poco fa il nostro teatrante preferito, ovvero un'altra 2 giorni, ovvero l'inaugurazione della nuova casa della rete Semirurali, che prende, diciamo, il piede, prende il via da una bella cena che appunto si terrà a Mondeggi il 5, magari dopo il mercato, cioè ovviamente a l'orario seguire è quella di cena, e dopodiché il 6 ci sarà anche appunto, ma Dama aiutami, il programma si trova su Facebook alle ci 18. Sarà proprio l'inaugurazione della casa dell'agrobiodiversità. Sì, eccola qua, piazza Filippo Brunelleschi 850 018 Scandicci Fi. Che altro si può fare questo fine settimana? Ah, cioè, si potrebbe fare tantissime altre cose. Ma c'è una cosa bellissima, che è la 3 giorni di camminata a Vico Pisano, se qualcuno interessa. Sì, vabbè, è mio cugino, fa le cozze per cena il sabato sera, quindi... No, però mi raccomando, scegliete bene, sappiamo che non potrete essere ovunque, soprattutto venerdì 5, però intanto potete iniziare ad esserci stasera al documentario, che sembra molto molto interessante, e scegliere uno degli eventi. Sì, che... tutti reperibili sui socials. Esatto. Quindi sono le 16:43. Salutare. È un casino. Esatto. Così cazzo. Salutiamo, così lasciamo l'ultimissima canzone e ci vediamo. Ci vediamo, tra virgolette, settimana prossima, ci ascoltiamo settimana prossima con mega puntate e trizzellazzi alle 14:30 fino alle 19, credo, quindi un bacione gigantesco dal mulo, dalla dama, dal drio e addio. Addio. Ciao, addio, Camicia, addio. Già ci manchi. Ciao Camicia. Nel cuore. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru, gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le 4 vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la la la la, tra la la leru, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la la la la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.